Picapa Industria. Espera. Mad Boys, Simon Easy. Mad Boys, Zero. Gente che crema. Mia madre mi diceva chi tiene le spalle dritte sa quello che conviene, poi previene le sconfitte. E viene sempre bene in foto chi ha le spalle dritte. Quando parlava mamma, le altre mamme stavan zitte. Per questo io le vene non me le sono mai fritte. Quando parlava io tenevo le mie orecchie dritte. E adesso mica vengo solo bene nelle foto, faccio rap. Vengo ancora meglio nei miei video stritte. Faccio rap, il senso non ti arriva al primo ascolto. Tu fai la canaglia con la calza a maglia per coprire il volto. Ma in Italia basta avere molto per rubare molto. E non ti serve neanche più il lenzuolo per coprire il corpo. Sempre storto, tra i fiumi dell'alcol sono sempre avvolto. Mica babbo, leggo le etichette, sono sempre assorto. Per iscritto sei sempre prescritto e sembri sempre assolto. Io sto zitto nel silenzio sordo, penso sempre al soldo. Io questa volta dico io che lo spingo questi po'. Non mi puoi copiare il flow e non dirmi di no. Tanto non ti crederò. E non ti crederò. E non ti crederò. Preservo la mia autostima. E non ti crederò. E non ti crederò. Ascolta questa mina. Yeah, ma coscia. Yeah. Mad Boys. Potevo fare il grosso, lo so, solo che riconosco i limiti del caso e guarda caso non indosso. Ma i panni che rivelino gli inganni e il paradosso. Sta musica non muore, però si parla addosso. Non ho l'ego di ripiego di chi scazza su un divieto per poi fare il figo in piazza con chi smazza e guarda indietro. Non temo quasi un cazzo, tranne i rappers e lo spreco. Per questo uso il tempo al meglio e cripto l'alfabeto. E tolto che distorco pure il senso del il discorso. Se fatichi a starmi dietro fai un corso e fai ricorso. Magari poi ti assegnano una figa di supporto che non te la darà mica, ma almeno fingi un rapporto. Non si sa mai se semini guai raccoglierai violenza. E chi coltiva da queste parti sai che parte in confidenza. Partecipare non un premio, serve più coscienza dei propri mezzi, anche dei quarti, quanti alla partenza. Io questa volta dico io che lo spingo questi po'. Non mi puoi copiare il flow e non dirmi di no. Tanto non ti crederò. E non ti crederò. E non ti crederò. Preservo la mia autostima. E non ti crederò. E non ti crederò. Ascolta questa mina. X-Tape Andrews Wright, Simo X, Sfera, Mato, Arcai. Resto chiuso in casa, accendo un'altra brasa, sperando che l'ansia che mi invade se ne vada. Invece si dilaga con sta busta paga, che ripiango i tempi in cui vendevo busta in strada. Qua la situa è strana, tutti amici fidati, ma poi li conosci, c'han più facce del cubo di papi. Fanno mafiosi perché han visto il capo dei capi. Io gli rompo il capo, poi gli rubo i capi. E anche se non ne va mai una dritta, cartello con ste strofe, tanto che vogliono assumermi all'Invicta. Simo X Fry, spingo forte per questa città. La Genova rap e voi non riuscite a immaginare quali sono le sue potenzialità. Parlo solamente per chi ne sa, parlo solamente per chi vive con umiltà. Parlo per tutta la gente che si fa culo per niente, per chi resta vero sempre e crede in quel che fa. Parlo per chi semina ma non raccoglie mai. Parlo per quelli che nella vita fanno gli operai, che nonostante ore da lavoratore con le mani in pasta sudi ma non basta mantenere le spese che hai. Tutti con sta moda di parlare degli hater. Se più mi sconvolgo il flow lo capovolgo e lo stravolgo, finché fa le capriole come i breakers. Simo speremato mentre mato questa track, rimani pietrificato come sei fumato crack. Nonostante tutti i critici e politici ridicoli con i libri che insegnano, noi siamo sempre qua. Io questa volta dico io che lo spingo questi po'. Non mi puoi copiare il flow e non dirmi di no. Tanto non ti crederò. E non ti crederò. E non ti crederò. Preservo la mia autostima. E non ti crederò. E non ti crederò. Ascolta questa mina. E siamo alla ultima canzone. E io. Sì. Mad Boys, Mad Boys, X-Tape, X-Tape, volume 2.